un boccone di pane. Mangialo, la forza ritorni in te per rifare il cammino. Egli ricusò dicendo: non mangio. I suoi servi lo forzarono, così pure la donna. Egli dette ascolto, si alzò da terra e si pose a sedere sul letto. La donna aveva un vitello ingrassato nella stalla, lo uccise in fretta e, presa la farina, la impastò e ne fece pani azzimi. Li pose davanti a Saul e ai suoi servi. Essi mangiarono, poi si alzarono e ripartirono la notte stessa.